guardando indietro a ciò che è stato e te ne andrai come il sole da questo giorno strano e riuscirai a guardare indietro senza pietà il sentiero calcato dai tuoi passi fino ad oggi ora mostri le misure le gioie né paure ma soltanto tenerezze e pugni di dolcezza. Guardando indietro a ciò che è stato, ma tu che farai?